Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo subito con Grecia e Spagna. Nuova settimana intensa per i due paesi, che hanno due difficoltà molto diverse, ma sono uniti assieme dai dubbi che fanno sorgere ai mercati, agli investitori e anche alla politica sulla tenuta dei due paesi. La Grecia sarà sottoposta all'esame della cosiddetta Troica, quindi la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea, prima che venga staccato un prestito, ne parleremo. Mentre in Spagna la situazione si complica, Rajoy continua a dire di non aver mai chiesto aiuti all'Europa, però un gruppo bancario spagnolo importante ha chiesto oggi di ricapitalizzare per 8 miliardi e mezzo. Non si capisce da dove arriveranno questi soldi, ne parleremo anche di questo, perché è chiaro che la parte spagnola è in termini quantitativi ben più pesante di quella greca. Parleremo anche dei dati auto italiani, usciranno alle 18, ma il tema è molto d'attualità non solo per i dati auto ma soprattutto per la posizione della Fiat. E purtroppo parleremo anche delle regioni e delle province. La campagna, lo dico tranquillamente, non si ferma con la Regione Lazio, perché sarebbe sbagliato, oltre che scorretto, limitarsi alla Regione Lazio. Tutte le volte che avremo altre segnalazioni, qualunque sia il colore politico della regione, le ricorderemo. E poi i mercati finanziari. Oggi, nonostante alcune notizie dalla Cina di un rallentamento dell'attività economica, i mercati sono tutti ben intonati, e in particolar modo Parigi più 2,30 e Milano più 2,70%, ebbene anche Francoforte più 1,60, Londra più 1,50, l'America più 1,1, l'euro recupera quota 1,29, ebbene in particolar modo alcuni titoli non necessariamente bancari, Mediaset recupera il 4,80%, Finmeccanica pure, il 4,60 è il rialzo di Buzzi Unicem, il 4,5% quello di UbiBanca, Fiat Industrial più 4,30, ST Microelectronics più 4 come Prismian, e Intesa San Paolo, bene anche la Popolare di Milano più 3,90, Generali più 3,80, il Banco Popolare più 3,5, mi fermo con chi guadagna più del 3%, ossia TOZ 3,5, Unicredit più 3,30, Monte dei Paschi e Popolare Emilia Romagna più 3%. Non c'è nessun titolo negativo, chi cresce meno di altri è Snam più 0,60 e Parmalat più 0,80%. Nessun titolo negativo chiaramente tra quelli a maggiore capitalizzazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo in tema di mercati. Se l'oro è in leggero calo a $1,763, il petrolio in leggero rialzo a $92,4 al barile, oggi il gigante delle materie prime Glencore, quello che ha rinunciato alla fine all'operazione su Alcoa, e l'altro gigante Xstrata hanno annunciato nell'accordo di fusione, un'operazione più volte rinviata. Comunque creerà lo scambio di azioni tra Glencore e Xstrata un gigante nel settore delle materie prime a livello mondiale, con una capitalizzazione di borsa di 55 miliardi di euro. In tema sempre di materie prime, ma questa volta energetiche, Edison ha vinto l'arbitrato con l'Eni per abbassare il prezzo di acquisto del gas libico fornito da Eni a Edison, e quindi beneficerà nel bilancio 2012 di un impatto positivo di almeno 250 milioni di euro. Il tribunale arbitrale infatti ha ritenuto la richiesta di revisione del prezzo formulata nel 2010 da Edison valida sia nella forma che nella sostanza. Ma sempre in tema di Eni, oggi l'amministratore delegato Paolo Scaroni, nel suo intervento al forum della cooperazione internazionale che si è tenuto a Milano, ha rivendicato il ruolo di Eni in Africa, dove ha detto Scaroni: siamo di gran lunga il principale produttore di idrocarburi. E lo siamo grazie anche all'attività di cooperazione, allo sviluppo con i paesi e con le comunità sul territorio. Ascoltiamolo al microfono della nostra Valentina Furlanetto. Non tutti gli italiani sanno che noi siamo di gran lunga la prima compagnia petrolifera in Africa, sia per produzioni sia per paesi di presenza. Siamo presenti in 22 paesi africani e nessun altro neppure lontanamente vicino a quello che facciamo noi. La presenza di Eni fra gli sponsor però ha sollevato alcune proteste fra le ONG. Ma questo ne dubito francamente, saranno delle persone non informate. Guarda, noi facciamo cooperazione in tutti i paesi dove operiamo, che vanno dalle attività nel campo sanitario che fa la nostra Eni Foundation, alle attività che facciamo nella formazione, addirittura ci impegniamo dove ci sono la salvaguardia del patrimonio archeologico o artistico, e poi operiamo nelle infrastrutture e il tema di cui ho parlato oggi, la nostra disponibilità a produrre elettricità. Produrre elettricità vuol dire investire centinaia di milioni di dollari in paesi dove normalmente la gente è molto cauta nei propri investimenti, perché sono paesi che hanno tutta una serie di problemi nei quali noi invece crediamo. Senta, invece in Europa il gas continua a andare male. Quello, certo, ma i consumi scendono. E dai temi dell'energia passiamo invece ai temi prettamente italiani. Come ricordavano i nostri GR, la disoccupazione ad agosto è ferma al 10,7% in Italia. Resterà pure stabile, ma siamo sempre al livello più alto di disoccupati dal 2004, che è l'anno da gennaio 2004, l'anno in cui iniziano le serie storiche, quindi non sappiamo in realtà da quanto non fosse al 10,7%. Però i disoccupati ad agosto sono stati 2.744.000, in leggerissima diminuzione mese su mese, quindi rispetto a luglio, meno 9.000. Su base annua, però, ad agosto del 2012 rispetto ad agosto del 2011 c'è una forte crescita, ossia i disoccupati sono aumentati di 640.000, ossia il 30% in più. È calata per fortuna la disoccupazione giovanile dal 35 al 34,5%, però mese su mese, rispetto all'anno prima siamo sempre a un più 5,6%. È un dato comunque inaccettabile che il 35% dei giovani tra i 15 e i 24 anni sia disoccupato. Le persone che cercano un lavoro in quella fascia di età sono 593.000. Gli inattivi invece, quelli che non rientrano nella disoccupazione perché non cercano lavoro, non ce l'hanno ma non lo cercano nemmeno, sono tornati ad aumentare su base anche mensile dopo un anno che erano stabili. L'aumento a luglio è dovuto quasi esclusivamente, purtroppo sono 92.000 inattivi in più, alle donne, cioè che hanno smesso di cercare lavoro e restano a casa. E nel frattempo, sempre in tema di mercato del lavoro, do questa notizia con le pinze, perché oggi a Napoli quello che è certo è che ci sono stati fortissimi disagi per tutti coloro i quali avessero voluto prendere la circumvesuviana e anche in provincia. C'è stato uno strano caso di epidemia, ossia il 60% dei treni si è fermato perché mancavano moltissimi macchinisti e comunque moltissimi dipendenti. 48 treni sono partiti su 123. L'azienda ha attivato i controlli per accertare lo stato di salute dei dipendenti, tutti quanti malati improvvisamente. In realtà è sospetto che questa sia una forma di protesta contro il mancato pagamento degli stipendi. Non si sono presentati al lavoro il 60% dei dipendenti. Poi io dico, è inaccettabile che non vengono pagati gli stipendi, ma è anche inaccettabile che invece che fare una protesta sindacale con tutti i criteri e i canoni del caso, si può anche fare lo sciopero, uno si mette in malattia, la malattia viene pagata. Non mi sembra un rimedio migliore del male. Mario Monti, la sintesi velata dal nostro GR oggi a margine del forum della cooperazione a Milano, ha detto attenzione, io vorrei lasciare il governo ad altri nei prossimi mesi e bisogna spostare il fronte dell'intolleranza, perché non è giusto separarsi tra chi è di destra e chi è di sinistra, ma tra chi paga le tasse e chi non le paga. Io su questo sono d'accordo al 100% in questo momento. Comunque, Mario Monti. Gli italiani riescono molto a creare nel mondo, e molte delle persone qui radunate ne sono protagonisti attivi, un capitale sociale, un capitale di relazione. Dispiace solo che siamo un po' meno capaci per ora di crearlo in Italia, questo capitale sociale di fiducia, fiducia degli uni negli altri. E io mi auguro che si possa un po' per volta spostare quel fronte di intolleranza che ha caratterizzato tanta parte della recente vita italiana, spostarlo perché non separi chi è di destra da chi è di sinistra, anche se le differenze possono essere importanti, ma separi essenzialmente due parti: coloro che pagano le tasse, assolvendo quindi ai loro doveri di cittadinanza, e gli altri. Credo che questo contribuirà, ne sono sicuro, a dare un senso di cittadinanza comune. Quando lasceremo ad altri nei prossimi mesi il governo del Paese, io spero che con queste attività di cooperazione, la cui risonanza nel Paese deve essere sempre maggiore, e con qualche banale principio di gestione interna, spero che lasceremo ad altri un Paese un po' meno rassegnato e un po' più rasserenato. Devo dire che sono assolutamente d'accordo, ma così come invece che dividersi tra destra e sinistra, forse è il caso di iniziare a dividersi tra chi è per il merito e chi è per la raccomandazione, tra chi è per la concorrenza e chi è per le protezioni, tra chi pensa che le professioni, i mestieri si tramandino di padre in figlio per casta ricevuto o invece per una capacità di farsi valere correttamente. Sono i valori, secondo me, su cui dividersi sono altri, con una crisi che non è più una crisi ma un cambio strutturale ed epocale. Invece sulle pensioni italiane vedo già molti messaggi. Attenzione, il ministro Fornero ha detto che non c'è nessun allarme sui conti dell'INPS, ne parleremo più avanti. L'allarme era dettato dal buco da 9 miliardi di euro che potrebbe mettere a rischio il pagamento delle pensioni. Lo ha sostenuto il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza della Super INPS, quello che è nato dalla fusione tra INPS e ENPAS e INPDAP. Però ha rassicurato sia il presidente dell'INPS, Mastra Pasqua, sia il ministro Fornero. Ripeto, il tema lo tratteremo più avanti. Adesso, prima di arrivare alla Spagna e alla Grecia, occupiamoci dei casi di casa nostra. E quindi torna, ahimè, non sapete quanto vorrei non averla questa rubrica, ma la rubrica sugli sprechi delle regioni, oggi anche delle province, perché non è giusto prendersela solo con le regioni. 349-238-6666 per i vostri sms, avete ragione nel scrivere, ci si può dividere anche tra corrotti e onesti, tutto giusto, basta non cadere nelle solite logiche, no? Che ormai appartengono, forse visto che è morto oggi Eric Osban, al secolo breve, non più al secolo tormentato che stiamo vivendo. Comunque, le notizie di chi la crisi non la sente, ossia l'allegra gestione dei nostri soldi tra regioni e province. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, partiamo dalle province. Oggi il consiglio provinciale di Catania in un anno è riuscito ad accumulare spese, i consiglieri, per 215.000 euro, spese che vanno da calendari, bandierine, tablet, giardinaggio, basta chiaramente poterle giustificare. Moltiplicate per il numero delle province italiane, 107, si capisce quanto costi la politica. Ma vediamo alcune spese allegre. Di solito il modo per giustificarle è dire che sei fuori sede, in missione, a distanza. Allora, in Abruzzo, dove un po' di decenza dovrebbe arrivare anche dal disastro del terremoto, ma che... I rimborsi viaggi dei consiglieri, 8.425 euro nel mese di aprile, dei quali un quarto appannaggio del presidente Giorgio De Luca, che ha irrobustito lo stipendio con oltre 2.000 euro che si è accordato per percorrere i 37 chilometri che separano la sua residenza di Manopello da Pescara. Vero, come li percorre? Trainato su una biga, un importantino, non so. A Treviso la giunta Muraro ha messo insieme 177.000 euro di rimborsi viaggi in un anno, 177.000 euro per i consiglieri provinciali, ma dove devono andare? In un solo mese, nel marzo 2011, il vicepresidente Floriano Zambon del PDL ha presentato spese per trasferimenti per 5.300 euro. Praticamente i consiglieri dell'opposizione hanno stimato che con quella cifra Zambon deve essere andato da casa sua a Conegliano, fino in ufficio a Treviso per 32 giorni consecutivi, compresi sabato e domenica. Ma tanto basta l'autocertificazione per il rimborso chilometri. E di peculato però dovrà rispondere Eugenio Dorsi, presidente della provincia di Agrigento. Avrebbe fatto piantare nel giardino di casa sua 40 palme facendole acquistare dalla provincia di Agrigento a 150 euro l'una. Non è solo la cifra, e comunque insomma sono 6.000 euro, ma come si fa a caricare le palme di casa tua, no, al costo sulle spese della provincia di Agrigento? Magari fossero sti cactus, no? Uno ci poteva cascare sopra per sbaglio. Come dimenticare invece l'acquisto da parte della provincia di Reggio Calabria, poi rientrato perché venne fuori uno scandalo, di un pianoforte a coda da 120.000 euro. Ma ce n'è anche per Bolzano, perché il presidente Luis Dunvalder è stato condannato da parte della Corte dei Conti per aver finanziato per 2.400 euro un torneo di beach volley. Notoriamente beach volley è lo sport che va per la maggiore a Bolzano, no? Non ci facciamo mancare niente. A dicembre 2011, ricorderete, i consiglieri di Siracusa si regalarono 19 tablet con connessione a internet, e intanto a Milano va avanti il bando per la provincia per realizzare un'altra torre, 12 piani, 43 milioni. Ma la provincia di Milano fra un po' verrà sciolta, tra 400 giorni deve diventare città metropolitana. Stessa sorte anche la provincia di Roma, che comunque si sta per trasferire nei nuovi uffici dell'Eur, costati 263 milioni. Adesso l'applauso invece oggi se lo becca il consigliere della Val d'Aosta, è un mito, adesso devo beccarlo qua, Raimondo Donzel, segretario del PD locale, perché ha deciso un atto duro e senza... misura dura e senza paura. Ha deciso di tagliarsi lo stipendio. Mi riduco l'indennità. E finalmente, direte voi, qualcuno che se la riduce? Sì, di 100 euro. 100 euro, ossia l'1,36% della sua indennità. Allora, un bel applauso, perché apprezziamo questi gesti di coraggio, ed è così che il paese può uscire dalle secche della crisi. Grazie, consigliere Donzel. E però ce n'è anche per altre regioni, visto che dite l'Emilia-Romagna, i PM stanno indagando, vorrebbero capire come spende l'Emilia-Romagna i soldi per i viaggi, perché alcuni saranno utili, ma altri mi sembra di no. Pensate che i consiglieri della scorsa legislatura in Emilia-Romagna hanno speso 315.000 euro di missioni il consiglio e 290.000 euro la giunta, che a casa mia fa la bellezza di 600.000 euro in missioni. A parte il fatto che io le abolirei tutte le missioni delle regioni, non servono a niente, se non c'è, a meno che non ci sia una cosa specifica, la regione Guangdong che si allea con la regione Marche o Emilia Romagna, ma che serve sta roba qua da proprio strapaese? Allora, una delle mete più apprezzate è New York. Nel 2005, per il Columbus Day, la regione Emilia Romagna ha speso 50.000 euro perché sei consiglieri sono dovuti andare per forza, era impellente, a New York. Poi nel 2006 poi Paolo Zanca Uniti nell'Ulivo, Partito Socialista, insieme a Luca Bartolini di AN e a Renato Del Chiappo di Rifondazione Comunista, sono andati a guidare la delegazione emiliana. Mi hanno debitato, racconta Zanca, 12.000 euro, ma non li ho spesi solo io. Me l'hanno messi a me in carico perché ero il capo delegazione. Ho capito, ma eravate in tre, ne avete spesi 4.000 a testa. Ma perché poi? Ma. E comunque, aggiunge Zanca per scusarsi, ma c'era anche la delegazione della Campania, guidata da Sandra Mastella, con 120 persone, e quella di Filippo Penati da Lombardia, con altre 60. Mi vergognavo essere lì anche se eravamo solo in tre. Beh, poteva tornare a denunciarlo, B. E poi non è che il benchmark lo facciamo con la moglie di Mastella e con Filippo Penati, che è sotto inchiesta per quello che si è rubato alla provincia, secondo le accuse dei PM. No, magari usiamo dei benchmark un po' più virtuosi nella vita. E comunque Zanca è andato anche a Taiwan, in Cile, a Rottenburg, in Germania, e dice: a Taiwan andammo per una missione che riguardava la ricerca informatica. Va bene. Poi non so che sviluppi ha avuto, però intanto ci sei stato, giustamente. In Cile sono andato perché c'era la visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E cosa c'entra? Cioè, Napolitano va in Cile, ci devi andare anche tu. Ma che sei, il protocollo del Quirinale? E a Rottenburg siamo andati perché ce lo chiese il Comune di Faenza. Gli avrà puntato la pistola: vai a Rottenburg, il Comune di Faenza ti vuole a Rottenburg. C'era una mostra di ceramiche e vuoi... E mai più senza, no? Come si fa? Chiudiamo, perché ne ho già, diciamo, l'anima piena, con il mitico Raffaele Lombardo, che non, cioè, la regione Sicilia è in bancarotta tecnicamente, ha un buco di 5 miliardi 200 milioni, ma Lombardo, che si è pure dimesso, ma non se n'è accorto nessuno che si è dimesso, perché continua a fare nomine. Questa è bellissima, gli do un altro applauso. Ha nominato un direttore di un ente che deve ancora essere istituito. Cioè, questo è un paese che riesce a fabbricare la sedia prima ancora di creare l'ufficio, il tavolo. Una volta si diceva che era l'organo che sviluppava la funzione, ma qui è la funzione che sviluppa l'organo, no? Prima facciamo la nomina e poi sviluppiamo l'organo. Infatti Gioacchino Marsala, noto farmacista di Sciacca, deve diventare il presidente, il direttore generale della riserva naturale fra le province di Palermo e Agrigento, dove è stata rilevata la presenza di oltre 700 specie vegetali. E giustamente chi ci mette? Un farmacista, perché il ragionamento è: essendo i farmacisti degli erboristi in origine, lui conosceva bene le piante della provincia di Palermo e di Agrigento, ed è l'ultima nomina su 22 nomine che ha fatto in due mesi Lombardo, uno ogni tre giorni, nonostante 5 miliardi e 2. E quindi un applauso anche a Raffaele Lombardo, che c'è, non c'è. Ah, basta, io sono veramente stufo, anche perché oggi c'è una nuova notizia sul Piemonte, un'assunzione falsa allo scopo di far risultare un'uscita di denaro dal bilancio dell'associazione Terre d'Acqua, ente partecipato alla provincia di Vercelli e comune di Trino Vercellese, un finto contratto di lavoro siglato con firme altrettanto fasulle e all'insaputa dell'interessata, cioè questa è stata assunta senza saperlo. E a denunciarlo è stato l'ex consigliere comunale di Trino Anna Montarolo, ed ex moglie di uno degli imputati. Comunque, siccome mi sembra che poi la regione Sicilia vorrebbe addirittura entrare dentro Windjet, come se non avesse abbastanza buchi, noi chiudiamo questa prima parte, ahimè poco allegra, con il solito invito, Quinto Potere, Sidney Lumet e anche Vasco, dai. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. ...17:38, adesso parliamo di Spagna e Grecia e poi delle borse e poi del mercato auto italiano. Alle 18 usciranno i dati. Un paio di risposte al 349-238-6666... Allora, c'è chi dice: ma insomma, dopo tutti gli sprechi, le ruberie, le inefficienze che raccontate, non è che siano tutte uguali, però insomma, come fa lei a sostenere che ragione Monti nel dire che bisogna dividersi tra chi le tasse le paga e chi le tasse non le paga? Per un semplice motivo: intanto perché non si può, diciamo, usare un reato o comunque un malcostume per giustificare un altro. Non è che siccome c'è qualcuno che guida ubriaco al volante io passo col rosso a questo punto. E in secondo luogo perché il ragionamento casca su un altro principio pragmatico. Se tutti potessero non pagare le tasse, allora facciamo una bella manifestazione fiscale, ma siccome c'è una parte del paese che le tasse le paga, cioè tutti i milioni di lavoratori dipendenti, questo ragionamento non ha un senso, non è che siano cittadini di serie B loro. Allora, uno inizia a pagare le tasse, le paga, si comporta in maniera corretta con lo Stato e poi esige. Invece qui il patto è stato: io non pago le tasse e me ne frego di controllare lo Stato. E ci siamo votati, queste persone le avete votate, non tutti, ma sono state votate, non le ha messe lì un marziano. Non si poteva sapere, va bene. Però insomma, in alcuni casi, parliamoci chiaro, anche la cosiddetta società civile ha avuto un patto faustiano per dire: vabbè, tu non mi controlli, mi lasci dire e dici a livello anche nazionale che evadere è giusto, e io a quel punto voto chi sostiene queste cose. Per favore, non usiamo esempi negativi per giustificare comportamenti illeciti. Detto questo, c'è anche chi scrive: ma quando le missioni le fa la Regione Emilia Romagna va per firmare contratti e per supplire a una carenza dello Stato. Beh, non mi sembra proprio, mi scusi, a parte il fatto che chi è che ha deciso che dobbiamo spendere per la Regione quello che non riesce a fare lo Stato? Ma ripeto, le giustificazioni fornite dalle delegazioni dell'Emilia Romagna a New York o a Taiwan, insomma, Zanca dice: andammo a Taiwan in missione per una missione sulla ricerca informatica, poi non so che sviluppi ha avuto, ma manco il feedback, manco sapere che ci sei stato a fare, almeno ti sei divertito in Cile perché c'era Napolitano, è quello che contratto hai siglato col Cile, abbi pazienza. E a New York per il Columbus Day che cosa hai fatto di determinante per il Columbus Day? Posso andare avanti però, perché il consigliere del PDL Enrico Aimi volerà a New York, è volato a New York 2 anni fa per incontrare la comunità italiana all'estero. La consulta emiliano-romagnoli nel mondo è costata fino adesso 3 milioni di euro, presieduta da Silvia Bartolini, e voglio dire, non si capisce perché ci debba essere la consulta emiliano-romagnoli nel mondo con spese nostre, e non si capisce perché Alberto Vecchi, sempre della Regione Emilia-Romagna, è sotto inchiesta per aver dichiarato il falso. Sapete cosa ha detto? Che non abitava più a Bologna, ma a Porretta Terme, per farsi dare il rimborso. Siamo a questi livelli. Siamo a livelli che, voglio dire, da scuola elementare. Dici che abiti a Porretta Terme, a 60 km da Bologna, perché così ti fai dare un rimborso più alto. Ebbene, il signor Alberto Vecchi nel 2008 è volato a Sydney spendendo 7.700 euro nostri e degli emiliani per incontrare la comunità italiana di Sydney, che è ancora lì, che ringrazia ed è sotto shock probabilmente. Va là, dai, parliamo di Grecia che sembrano quasi più seri. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché mentre secondo l'agenzia di rating Fitch la Spagna è vicina alla richiesta di un aiuto, però il commissario europeo Olli Rehn dice che da Madrid non è ancora arrivato alcuna richiesta, alcuna richiesta di aiuto, dalla Spagna arrivano notizie sempre più preoccupanti sul fronte bancario. Il Banco Popular cercherà di vendere azioni sul mercato per un aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo. Le azioni sono arrivate a perdere oltre il 10%. E poi c'è il fronte greco, perché oggi è iniziata Atene, forse l'ultima, ma sicuramente la più decisiva delle trattative tra il governo di Atene e la Troica, quindi Fondo Monetario, Unione Europea e Banca Centrale Europea, coloro i quali rappresentano chi ha prestato soldi alla Grecia in questi 2 anni. Hanno incontrato il ministro delle finanze Yannis Stournaras e hanno rivisto le misure proposte dal governo greco per arrivare a quei tagli da 13 miliardi e mezzo per il 2013-2014 che dovrebbero poi permettere alla Grecia di ricevere la tranche, una nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. Samaras, il premier greco, incontrerà la Troica alle 18, ma noi siamo già in collegamento con Vittorio D'Arold. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Il greco del Sole 24 Ore, non è un'offesa, eh? Anzi. Dunque, la Grecia va abbiamo anticipato tutti i temi che, di cui tu stai parlando, di cui stai trattando sì. in qualche modo. È un po' come accade nella storia, no? Grecia capta, no? Anche qui, no? Abbiamo imparato dai greci. Temo che purtroppo fossimo già bravi da soli, ma visto che la canzone di Rino Gaetano è di 30 anni fa. Comunque, Grecia va verso il sesto anno di recessione, domani se ne occuperà anche il Sole 24 Ore, assieme a altre inchieste sui reati tributari e sulla fuga dal lavoro. Stanno crescendo gli inattivi, c'è qualcosa che non sta funzionando forse nella riforma Fornero, se ne occupa sempre il Sole 24 Ore domani. Ma dicevo, sesto anno di recessione per la Grecia, farà un meno 4% anche nel 2013, tant'è che il candidato dell'SPD, quindi dei socialisti tedeschi, Per Steinbrück, ha detto in un'intervista al Die Welt: date più tempo ad Atene. Lo dice il leader dell'opposizione tedesca, non lo dice un greco. Vittorio. Sì, esattamente. Steinbrück, che appunto è questo ex ministro delle finanze in un governo di coalizione precedente, e quindi uno che insomma ne sa di queste cose, ha ammesso e ha invitato il cancelliere tedesco, che sarà il suo rivale, quindi Angela Merkel, a dire la verità, cioè per almeno 6, 7, 8 anni la Grecia non potrà tornare sui mercati, perché la recessione implica immediatamente il fatto che si riducono anche le entrate e quindi il deficit, anche se tu naturalmente tagli e riduci, non verrà raggiunto, e questo nel piano di ristrutturazione prevede il ritorno, anche se graduale, della Grecia sul mercato nel 2015. Tutto questo è quindi, secondo Steinbrück, impossibile, e quindi invita tutti a dire: beh, prendiamone atto, e prendiamo atto che in qualche modo la Grecia va aiutata, perché la sua uscita creerebbe più problemi di quanto ne potrebbe appunto creare, e allora diamo o riduciamo i tassi o allunghiamo i tempi per ridurre, per restituirci i crediti, oppure diamo più tempo a restituire ai bond che ha comprato la BCE. La BCE però ha già detto: no, io non c'entro, tocca agli stati, e quindi toccherà agli stati e al fondo monetario trovare una soluzione. Sta di fatto che quasi ormai tutta la stampa tedesca si sta orientando sul fatto che gli aiuti, la tranche, verrà data comunque, perché I tedeschi sono un po' duri delle volte, anche una loro qualità, ma mi sembra che lentamente in Germania, prima Angela Merkel, poi adesso anche il leader dell'opposizione, colui il quale la sfiderà alle elezioni dell'anno prossimo, stiano capendo che chiedere a uno con la flebo ricoverato di correre i 100 metri forse significa decretarne la morte, in questo caso come paese. Cioè, continuare a pensare che la Grecia possa rimborsare quello che non riesce a rimborsare, allora fai il calcolo se ti costa di più farla uscire dall'euro, che sarebbe un disastro per tutto il resto, o tenetela dentro e salvarla. L'avessimo fatto 2 anni fa, Vittorio, avremmo risparmiato qualche migliaio di euro di capitalizzazione di borsa, ma tant'è. Dopo il traffico però vorrei sapere se i greci stanno facendo i loro compiti a casa, perché pure lì ogni volta che arriva una tranche o si ammorbidisce la tensione, anche i greci tornano a ammorbidire la loro di tensione e il loro rigore. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Vittorio Darold, il front tedesco si sta rendendo conto che, obtorto collo, devi accettare che se un paese è per il sesto anno in recessione difficilmente riuscirà a pagarti nei tempi che vuoi, e come fanno le banche delle volte, è meglio tenere in vita il debitore che non strangolarlo, che così poi fallisce. Però la Grecia nel frattempo sta facendo pulizia, perché questo piano da 13 miliardi e mezzo a me sembra ancora sulla carta. Sì, è molto sulla carta, perché il problema è che è un governo di coalizione, quindi Samaras ha due partiti che sono, diciamo così, più vicini alle esigenze della centrosinistra, e quindi naturalmente quando si chiede, probabilmente la Troika ha chiesto nuovamente il licenziamento di 15.000 dipendenti, ricordiamo che la Grecia ha 650.000 dipendenti pubblici e ne basterebbero solo 500.000, quindi ne ha 150.000 in più. Allora cosa chiede la Troika? Chiede di ridurne almeno 15.000, cioè cominciare a sfoltire per ridurre appunto queste spese, ma su questo cominciano subito i problemi perché sono misure antipopolari, cioè sono misure che naturalmente scatenerebbero un nuovo sciopero generale. Tra parentesi, i sindacati hanno già annunciato che a ottobre ne faranno il quarto sciopero generale. Questo è il vero problema. Poi chiedono di ridurre dei costi naturalmente sulla vicenda dei contratti, delle liberalizzazioni che sono sempre state fatte sulla carta ma non sono state mai applicate. Anche qui purtroppo vediamo che anche noi abbiamo promesso molto più di quello che poi riusciamo a fare con decreti attuativi. Ecco, anche qui la Grecia ha promesso e ha detto alla Troica che avrebbe fatto le liberalizzazioni, poi però nei fatti manca un decreto, manca un'attuazione, non si sono poi realizzate e quindi la competitività del paese resta sempre al palo, perché corporazioni, interessi eccetera impediscono che quelle leggi, quelle riforme varate e approvate poi trovino sul terreno una sua espressione. E stai parlando della Grecia, vero? Sto sempre parlando della Grecia, ma come vedi poi molto di quello che si dice per la Grecia ha dei riflessi anche da noi, cioè il meccanismo è quello di dire sì, approvare, far passare in Parlamento, ma poi dimenticarsi che il ministro competente faccia quel decreto attuativo e dia le disposizioni che quella liberalizzazione dei trasporti, delle professioni, eccetera, vada veramente come era stato promesso a dei creditori in questo caso, cosa che poi non avviene. Quindi la Grecia ancora una volta ha i costi alti, ha la burocrazia più elevata, è difficile per gli investimenti internazionali arrivare e così via. Ecco, nel frattempo chi volesse comprarsi una banca greca può comprarsi la Emporiki perché è in vendita al prezzo di un euro. Lo dico perché voglio dire, magari la regione Sicilia che vuole partecipare a Winjet comprasse anche una banca greca per gemellaggio nel Mediterraneo. Compresi i crediti inesigibili, perché il problema di Emporiki è che appunto ha quasi dissestato i conti di un gigante del credito che è il Crédit Agricole, che appunto ne è il proprietario fino ad oggi. E che ormai ha gettato la spugna ed è disposto a vendere questa filiale appunto a un euro simbolico. Sì, e dovrebbe comprarla forse Alfa Bank. Grazie Vittorio D'Arold, Troica resterà quasi tutta la settimana, se ho ben capito, sì, ad Atene. Stasera il primo incontro con Samaras, grazie Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Allora, alcuni ascoltatori chiedono, ma insomma con quello che lei ci legge tutti i giorni sulle malversazioni, ruberie, inefficienze, sprechi di regioni, province, anche dello Stato centrale, che cosa dobbiamo tenerci di questa classe politica? Niente. Cioè, voglio dire, la squadra che perde si cambia, il manager che fallisce o va in perdita non inutile dovrebbe essere cambiato, e allora anche la politica, via, ma non con cattiveria, non con, cioè, cambiare, girare. Avete fatto il vostro tempo, avete avuto le possibilità, avete avuto le maggioranze in Parlamento, l'ultimo governo, quello prima di Monti, aveva 100 deputati, non ha fatto mezza riforma. I governi precedenti non si sono accorti di nulla, il governo Prodi ogni tanto viene qua ma non è che abbia messo mano, anzi il centro-sinistra ha fatto la riforma dell'articolo 5 della Costituzione sul federalismo combinando un grandissimo casino e lo vediamo tutti i giorni, per cui a casa basta, tutti sti soloni, andate a scrivere sui giornali, commenti, non è che i giovani siano per forza più puliti, più onesti, ma almeno vediamo, mettiamo alla prova e vediamo cosa capita, cosa succede, se no a casa anche a loro. È un problema di meritocrazia, mi dispiace ma non hai saputo fare il tuo lavoro. Adesso la borsa che ha chiuso con un più 2,83% è il prossimo tema, ma c'è il GR che incombe in senso benevolo, molto bene Finmeccanica più 5,20, Mediaset più 5, Fiat Industria più 4,70, Buzzi Unicem più 4,60 e Ubibanca più 4,5 come Intesa San Paolo e Generali. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo tornare sul tema della classe politica, del ricambio. C'è chi dice, però attenzione, anche i grandi manager quando gestiscono male le imprese non è vero che vanno a casa. Allora, io, in molti casi abbiamo visto manager del settore privato percepire guadagni incredibili, ingiustificati. Parlavamo appunto del numero uno, dell'ex numero uno di Fondiera Sai, l'ultimo esempio che mi viene in mente. Però il problema è che quello è un accordo tra privati, ci saranno gli azionisti. In generale devo dire che nel mondo del privato, se non ottieni risultati, magari con la liquidazione non corretta, ma te ne vai a casa. Il problema qui nella politica è che noi stiamo ragionando ancora di un possibile così scontro tra politici che ormai è 20 anni che non hanno saputo mettere un freno per essere buoni al malcostume dilagante, per essere buoni. Allora, questo era il ragionamento. Poi non ho detto che il settore privato sia sempre virtuoso, anzi abbiamo raccontato belle magagne anche nel mondo del privato in questi anni. Però adesso la borsa. Ottima giornata, più 2,80%, nonostante notizie non bellissime che arrivavano dalla Cina, un rallentamento dell'attività economica. Però oggi il mercato, perché Parigi ha fatto più 2,40%, Francoforte più 1,5%, Londra più 1,40%, l'America è positiva di un punto percentuale, ha voluto così credere agli acquisti e anche a minori tensioni in Europa. Bene, soprattutto il settore bancario e quello delle costruzioni. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Buzzi, Unicem, bene, più 4,60%, ma anche e soprattutto Finmeccanica. Buzzi, sì. E Finmeccanica. Sì, Buzzi con tutto il cemento europeo e poi con tutti quelli che sono i settori ciclici che oggi sono stati premiati dagli acquisti, per esempio ST, settore high tech, ha guadagnato il 4,2%, settori ciclici, come giustamente dicevi tu, premiati oggi dagli acquisti che sono tornati dopo le vendite di settimana scorsa, ma anche dal fatto che l'indice ISM, che è il termometro della manifattura americana, che è stato diffuso nel pomeriggio, è tornato a segnalare un avanzamento dell'economia. Per quanto riguarda Finmeccanica, invece, le ragioni sono legate all'indiscrezione di stampa, in particolare del Sole 24 Ore, che ha riferito dell'interesse molto forte del fondo strategico controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti per la quota di controllo detenuta da Finmeccanica in Ansaldo Energia. È chiaro che una cessione di Ansaldo Energia migliorerebbe il profilo finanziario di Finmeccanica, che al momento resta critico. Beh, è sempre Ansaldo Energia, diciamo, quella che muove il titolo in questi mesi. Ancora A2A in controtendenza, continua a muoversi su altre utilities, più 4,1%. Poi passiamo alle banche. E anche qui ci sono A2A mossa da indiscrezioni sull'uscita della società dal settore delle TLC, uscita che si concretizzerebbe sia attraverso la vendita di una quota di minoranza, il 25% che ancora detiene in Metroweb, che è un po' il gioiellino della banda larga di Milano, un'uscita che varrebbe circa 60 milioni di euro, di cui circa la metà di plusvalenza, dunque che va tutta utile netto, e poi attraverso la cessione di una società più piccola che fa sempre banda larga a Brescia, che si chiama Selene. Comunque due cessioni che potrebbero migliorare anche qui un profilo di indebitamento che resta preoccupante. Fronte invece dei migliori e peggiori, poi ci arriviamo agli altri. Ross più 19,80%, bene classe editori più 8,30%, Carraro più 9,11%, fronte opposto, così li do, Banca Popolare dell'Etruria meno 7,36%, Ambro Mobiliare meno 6,15%, TAS meno 5,60%, Ecofide meno 4,70%. Per cento le banche, dicevamo, UbiBanca più 4,5%, Intesa più 4,40%, Generali più 4,30%, Popolare di Milano più 4,30% anch'essa, Banco Popolare più 4,12%, Unicred più 3,30%, Mediobanca più 3%, come la Popolare Emilia Romagna e il Monte dei Paschi. Ross, devo dire che qui c'è una notizia di mercato pura, no? Eh sì, diciamo. Che riguarda anche il terremoto. diciamo, sì, lateralmente anche il terremoto in Emilia Romagna, prego. Sì, perché sono per diverse sedute che Ross guadagna, diciamo, fa dei balzi notevoli in borsa. Quello di oggi è di fatto del 20%, perché Ross ha brevettato, ha inventato questo, diciamo, questa nuova scaffalatura per l'industria casearia, dove tenere appunto i formaggi a invecchiare, dove conservarli, delle scaffalature che sono antisismiche, quindi una trovata, diciamo, particolarmente importante anche alla luce di quello che è successo negli scorsi, diciamo, mesi. Che ogni tanto la borsa si muove anche su notizie che riguardano le imprese, non solo su speculazioni e voci di corridoio, e va bene così. E sono arrivate 4 milioni di ordini già entro dicembre, quindi 4 non milioni, è poco. E il titolo cresce, a mio avviso, giustamente del 19,80%. Edison, leggevamo in apertura la notizia di un altro arbitrato a favore di Edison, è il secondo in breve tempo, questa volta dall'altra parte, la controparte era Eni. Sì, perché si trattava del gas libico, sì. Fondamentalmente che Edison acquistava dall'Eni, sono 4 miliardi di metri cubi l'anno, sostanzialmente si tratta di contratti fatti in un'era geologica diversa, quando il gas costava molto di più, quindi alla fine il tribunale arbitrale ha deciso che questi contratti andavano rivisti, e Edison avrà per quest'anno un impatto sul MOL, proprio in virtù della rivisitazione del contratto con Eni, di 250 milioni di euro, che non è poco considerato che il MOL previsto per fine anno è 1,2 miliardi. Grazie a Ceo Condina. Vi do solo quelli che sono cresciuti di meno tra i titoli a maggiore capitalizzazione: Snam più 0,60, Parmalat più 0,90 e poi Autogrill e Telecom più 1,30%. Bene, è andata Fiat Industrial, quindi auto, quindi camion e trattori. Meno bene, ma sempre in crescita, Fiat più 2,31%, Fiat Auto. Di questo parleremo dopo il traffico, perché nel frattempo sono usciti anche i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di settembre. Beh, il mercato italiano fa un altro meno 25%, praticamente 109.000 unità a settembre vendute di auto contro le 147.000 del settembre del 2011. Già ad agosto c'era stato un meno 20%. Devo dire che Fiat è in linea come gruppo, anzi leggermente meglio del dato complessivo, fa meno 24,2%, e infatti la quota del gruppo, nonostante il calo nelle immatricolazioni, siccome Fiat è calata meno del resto del mercato, sale al 30,26%. Dati auto, quindi auto, la quota del mercato in Italia di Fiat sale al 30,26%, nonostante il mercato sia tutto in flessione, perché la flessione di Fiat è di 1,5 percentuale inferiore a quella complessiva, meno 25,70 il mercato italiano, meno 24,20 il gruppo Fiat. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Nostro buonasera, appuntamento Sebastiano. Annuale e mensile, ma ormai da anni, più che annuale perché da anni che vieni, mensile perché sì, tutti i mesi escono i dati auto. E ringrazio anche per essere tornato con noi il professor Paolo Malagoli, docente di economia dei trasporti all'Università di Ancona. Buonasera, professore. Buonasera, Barisoni, un saluto. E anche editorialista del Sole 24 Ore. Allora, Gianprimo, i dati scorporati per marchi. I dati scorporati per marchi mostrano una situazione estremamente difficile. Ci sono solo due marchi che crescono, Land Rover che cresce del 35%, ma ha dei numeri abbastanza contenuti, assoluti, e Kia che cresce del 12,21%. Tutti gli altri sono in rosso, in forte rosso, citando solo le case che fanno volumi: Peugeot perde il 4,57%, Volkswagen perde il 12,95%, Toyota il 16, Audi il 19, Hyundai il 19, BMW il 20, a rotondo naturalmente, Alfa Romeo il 22, Lancia il 25, Nissan il 28, Citroen il 32, Mercedes il 32, Opel il 34, Renault il 38, Ford il 38, insomma un vero disastro. Quindi non si salva nessuno e devo dire che questa volta Fiat fa meno peggio della media, Gianprimo. Sì, fa meno peggio della media, quindi riesce sostanzialmente a tenere, aiutata anche dal fatto di avere dei modelli a metano che stanno incontrando, a metano e anche a GPL, che stanno incontrando il favore del pubblico, perché i carburanti, come tutti sappiamo, sono saliti come prezzo a livelli veramente veramente elevatissimi e di conseguenza la gente pensa di risparmiare col metano e col GPL, in effetti è così, e quindi acquista prodotti Fiat che sì, sono non solo col metano, perché la notizia che mi ha impressionato oggi è che, come è già successo in Germania, anche in Italia nel 2011 il numero di biciclette vendute ha superato le auto, non capitava dal 1946. Dall'area di biciclette, diciamo, no? Sì. Più biciclette che auto, 1.748.143 bici vendute, auto vendute immatricolate, mentre le bici vendute sono state 1.750.000. Tra l'altro, in grande spolvero il restauro di vecchi modelli, circa 200.000 pezzi sul totale, è avvenuto anche in Germania. C'è la crisi, ma c'è anche il fatto che molte città ormai siano bike friendly, come si dice in gergo, cioè amiche delle biciclette e nemiche delle automobili. Professor Malagodi, al di là di questo sorpasso, che comunque è un segno dei tempi e non è necessariamente una brutta notizia, se ci sono più bici nei centri cittadini che auto, però la domanda è molto semplice: guardando questi dati e vedendo che tutte le case automobilistiche crollano, viene da dare ragione a Marchionne di non investire in Europa perché tanto il mercato non c'è. Beh, visto da un lato il discorso di Marchionne ha questo senso, visto dall'altro andrebbe probabilmente corretto, cioè mi spiego. Il mercato dell'auto sta segnando in Italia in particolare il calo che dicevamo, che diventa più accentuato in settembre, lo sarà ancora in ottobre, novembre, dicembre, quindi ci avvieremo a un anno che, avendo consolidato in 9 mesi 1.090.000 unità, chiuderà Siena a 1.400.000, che significa non solo un calo del meno 20% rispetto ai 1.750.000 dell'anno scorso, ma un calo di un 30% rispetto a un mercato fisiologico di sostituzioni di 2 milioni, il che significa, confortare ciò che lei dice, si va verso un tasso di demotorizzazione della realtà italiana. Uno dice è anche bene perché c'erano troppe macchine, certo, il traffico automobilistico esprime per le autostrade una diminuzione del 10%, nelle grandi città abbiamo un più 33% degli abbonamenti mensili al trasporto pubblico a Milano e un 20% per quelli mensili. Più 33% per gli abbonamenti mensili? Sì, certo, al trasporto pubblico e un 20% per quelli annuali. Certo, Milano ha una rete di trasporto efficiente, sì, no, certo. Anche a Roma abbiamo... È un meno 10% nel calo di traffico autostradale. La ponte è Aiscat, quindi il dato è certo. Però a Roma il dato dell'aumento degli abbonamenti è di un solo 6%, perché la rete romana ha un'inefficienza rispetto alle realtà di una metropoli quale quella. Il dato di fondo è che però Marchionne deve sapere, ma lui non ha i soldi per farlo, che chi ha fatto i modelli giusti, e Gianprimo prima lo citava, chi fa un 12%, Land Rover raddoppia la sua quota di mercato, che è vero che è ancora piccola, però Land Rover fa un 1,04 del mercato italiano, quando l'anno scorso era 0,57. Peugeot, con delle strategie di prodotto che sono a nuovo 208, ma anche delle campagne che sono state molto centrate, quello non paghi l'IVA e non paghi gli interessi, ha avuto un meno 4,57 rispetto a un mercato di meno 26 e fa una quota che supera di nuovo il 5,12. Se poi ribaltiamo questo sul dato europeo, che è quello secondo me più significativo, la mancanza di prodotto e di investimenti da parte di Fiat fa calare la quota, e parlo del dato europeo fino ad agosto, perché quelli europei della CEA di settembre li avremo il 15 di questo mese, lunedì, il gruppo Fiat cala da 7,4 a 6,6. Intanto un gruppo Volkswagen passa da 23,1 a 24,8. E allora in questa situazione chi ha i modelli riesce comunque a fronteggiare la domanda per quella parte che la domanda ancora esprime e si orienta di preferenza verso i modelli più nuovi. Chi non li ha, è vero che in Italia col GPL che questo mese è cresciuto del 136%, ormai rappresenta quasi il 12% del mercato, e col metano il più 31%, siamo a oltre il 4% del mercato di settembre, in qualche modo riusciamo a fronteggiare la partita con gli altri, ma in Europa non ci siamo. Quando in Europa vediamo un dato dei primi 8 mesi di settembre che mette una quota di Alfa Romeo al meno 31,2% e precipita la quota Alfa Romeo allo 0,8 con 62.000 vetture vendute in tutta Europa più EFTA, va detto che la Mini da sola vende 102.000 unità nel periodo, va detto che Dacia vende 162.000 unità. Allora dov'è il rilancio di Alfa Romeo? Sono politiche di investimento che Marchionne dice non le faccio perché non mi conviene, andrebbe anche letto non le faccio perché non ho la capacità. Allora sì, agli ascoltatori che dicono attenzione al calo del traffico dovuto alla crisi, non alla gente che compra bici, tutte e due le cose, mi dispiace anche che usiate epiteti un po' offensivi per chi conduce questo programma, ma non è, abbiamo un calo del traffico dovuto alla crisi, questo lo si vede benissimo nel traffico autostradale, ma un aumento delle vendite di biciclette dovute anche al fatto che ormai in moltissimi centri storici sia impossibile entrare in macchina se non pagando penali oppure nemmeno pagando, e quindi c'è un diverso atteggiamento del cittadino che secondo me è anche virtuoso. Gianprimo Quagliano, in una battuta però, ma perché, è una mia fissa, Fiat non investe nel settore delle auto ibride elettriche, visto che il metano è andato così bene, visto che il petrolio resta vicino ai 2 euro per 2 euro al litro? Ma le elettriche in Italia hanno venduto alcune centinaia di autovetture quest'anno dopo con una forte promozione, e le ibride poco di più, per cui è un mercato che ancora non esiste. Quindi secondo me Fiat, se deve investire, deve investire su qualche cosa che abbia prospettive di sviluppo a breve. Condivido in gran parte quello che ha detto Malagodi, anche perché la crisi dell'auto vista dall'Italia sembra una crisi generalizzata, ma non è così. Il mercato automobilistico mondiale quest'anno toccherà il record di immatricolazioni con 60 milioni di vetture vendute nel mondo. Va male solo in Italia e in Grecia, in Portogallo, in Spagna e in Irlanda, cioè nei paesi sotto attacco. Nei paesi che hanno dovuto fare la cura da cavallo. Hanno dovuto fare la cura da cavallo perché si è fatta una determinata politica per il rientro dal debito. Si può entrare, secondo me, anche molto più avanti. Vabbè, quello come, lo devi spiegare ai tedeschi, non a me. Ai tedeschi, però, sì, certamente. Detto questo, tu dici attenzione perché c'è un mercato mondiale, se escludiamo i paesi in difficoltà dove c'è una recessione economica, dove ci sono tagli e manovre molto dure. Paesi dell'euro, solo i paesi. Esatto, c'è un mercato mondiale di cui la Fiat potrebbe approfittare anche con i modelli, che è un ragionamento assolutamente corretto. Grazie a Gianprimo Quagliano, al professor Paolo Malagodi, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.